Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Alle 7:35 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, siamo in diretta al buongiorno di Radio 24 nel weekend, si può fare, cominciamo subito con un'occhiata ai giornali di oggi, quindi una veloce rassegna stampa fino al giornale radio delle 8, poi riprenderemo sempre in diretta per tutta la mattina. 349-238-6666 per i vostri sms, si può fare, trattino Radio 24, la pagina Facebook, l'account su Twitter è chiocciola, si può fare, 24 anche il mio personale, chiocciola Ale Maurizi. Vai, cominciamo. Allora, i giornali di oggi che dedicano foto a un ricordo al Mutkohl, il grande cancelliere della Germania, quello che riunificò, fu il padre della riunificazione delle due Germanie, quindi grande spazio su questo. Sempre per quanto riguarda gli esteri c'è l'America di Trump con una nuova svolta che riguarda anche Cuba. E poi il giallo sull'uccisione del leader dell'ISIS al Baghdadi, venendo all'Italia. Soprattutto il tema dello sciopero, lo sciopero dei trasporti, l'ennesimo sciopero di un venerdì che blocca soprattutto Roma, altre città sono state toccate di meno, però si riapre la questione se i sindacati con una rappresentanza minore anche del 10% dei lavoratori possano in realtà poi di fatto bloccare un'intera città, un'intera città che poi è sostanzialmente la città di Roma, perché quello che è accaduto a Roma è molto diverso da quello che invece è accaduto altrove, a Napoli, a Torino, ma anche a Milano, dove insomma, i mezzi pubblici hanno retto abbastanza, lo sciopero non è stato evidentemente così rappresentativo, l'organizzazione del servizio forse è diversa, la conformazione della città è diversa, fatto sta che Roma è affondata, infatti lo si vede anche dai titoli dei giornali di oggi, il Messaggero a tutta pagina, caos, scioperi, la resa dei partiti, però parliamo sostanzialmente della capitale, il blocco delle piccole sigle sindacali paralizza Roma, fermi metro, autobus, ferrovie urbane, va meglio in altre città, Del Rio dice serve una stretta ma tocca al Parlamento votare la legge, il garante anche lui si aggiunge a questo coro che però abbiamo già sentito mille volte dopo ogni sciopero, la legge cambi. Sul Corriere della Sera non c'è infatti notizia, quotidiano nazionale ma con sede a Milano, in prima pagina dello sciopero, anche se poi c'è una intervista al garante. La notizia la ritroviamo sul Corriere, sulla Repubblica, titolo principale, sciopero, le città in tilt, Del Rio, intervistato proprio dalla Repubblica, che dice è inaccettabile ora cambiare le regole. Per la stampa il venerdì nero dei trasporti, sciopero, un caso, Renzi dice uno scandalo, e chi non replica è il PD a bloccare la riforma. E allora vediamo intanto, per esempio, sì, l'intervista al comincerei con l'intervista al garante, se la trovo, eccola qua sul Corriere, dicevamo, intervista al garante, il garante Giuseppe Santoro Passarelli, garante presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi. Dal 2016 siamo di fronte a una proliferazione degli scioperi perché una moltitudine di piccole sigle sindacali, dice, può proclamare l'invito all'astensione dal lavoro. Per evitarlo serve un intervento normativo che aggiorni e disciplini meglio la legge. Queste organizzazioni minori autorizzano l'idea che proclamino degli scioperi solo per autolegittimarsi piuttosto che per difendere davvero i diritti dei lavoratori. Ed è un'accusa anche abbastanza pesante questa, ma ripeto, abbiamo già sentita n volte in passato. Dice il garante, che però non ha competenze legislative, ma ha semplicemente la competenza di verificare che gli scioperi avvengano nel rispetto delle regole attuali, le regole vigenti, quelle già scritte, dice va stabilito il principio che non tutte le sigle sindacali possono proclamare lo sciopero, ma soltanto quelle che hanno una certa consistenza. La soglia potrebbe essere, per esempio, una determinata percentuale di iscritti. Non mi compete indicare tale ordine di grandezza, resta che va fissato il principio per cui alla titolarità di invitare i lavoratori ad astenersi dal lavoro deve corrispondere una adeguata rappresentatività nel settore di riferimento. L'obiettivo, insomma, è impedire che a un sindacatino sia consentito di bloccare un servizio o, peggio, un'intera città. Poi ci sarebbe da capire come fa un sindacatino, come dice il garante e come dice anche il ministro Delrio, a bloccare un'intera città. O non è così un sindacatino, o evidentemente forse i servizi non sono organizzati in una maniera tale da reggere lo sciopero di un sindacatino del 5%, oppure l'adesione è stata più alta, oppure non lo so. Ecco, questa è semplicemente una domanda che si potrebbe rivolgere al garante, ma si potrebbe rivolgere anche al ministro dei trasporti Graziano Delrio, che è intervistato da Repubblica. Anche lui rincara la dose con questa intervista, che sostiene le stesse cose. Servono nuove regole, il paese non può essere ostaggio di minoranze. Com'è possibile che un'adesione del 38% mandi in tilt un'intera città? È quello che ci domandavamo poco fa, la domanda del giornalista di Repubblica a Delrio. Verificheremo se sono stati commessi degli abusi, intanto prendiamo atto dell'ennesimo sciopero che si svolge, guarda caso sempre di venerdì, più in generale va aperta, dice Delrio, una riflessione su come dare senso alla rappresentanza. Non è possibile, siamo al solito punto, che si proclamino scioperi a prescindere con rappresentanze. Il 10% dei lavoratori in altri paesi non è consentito, in Germania lo sciopero è talmente importante che prima di indirlo si interpellano i lavoratori e si vede se la maggioranza è d'accordo. Mi scusi la domanda del giornalista giusta di Repubblica, ma voi governate al 2013, perché non avete provato a mettere mano alle norme? In Parlamento fioccano le proposte di legge. Già, alla Camera ci sono proposte, risponde onestamente Delrio, di Sacconi, Damiano, Ichino. Una buona base di partenza. Avevamo iniziato un percorso, poi in autunno c'è stata una interruzione. E ci fermiamo qua, interrompiamo anche noi l'intervista a Delrio, per carità di patria, perché una volta che si ammette che ci sono proposte di legge che giacciono in Parlamento da 3 anni, per fare questa semplice cosa che tutti dicono di voler fare, allora poi diciamo che l'appello a babbo morto, cioè a sciopero fatto, a città bloccata, non è più credibile. Fermo restando le ragioni di chi ha scioperato, le ragioni delle condizioni di lavoro, gli stipendi, si tratta di un settore, quello dei trasporti, fondamentale e importante, ma si parla anche delle regole che devono consentire a una città di poter funzionare, di non potersi bloccare ogni venerdì per ogni sciopero. Allora, dicevamo, ma sì, argomento collegato, se vogliamo, a questo, prima di andare sulle altre notizie, è quello scelto dalla Stampa, che a pagina principale titola con Province fantasma, nessuno ripara strade e scuole. Già che parliamo di trasporti, parliamo anche di strade, perché il conto che presenta la Stampa in questo reportage a pagina 1, 2, a pagina 3, con titolo principale, è abbastanza impressionante. I numeri parlano chiaro: alle province è stato tolto 1 miliardo di euro nel 2015, 1 miliardo nel 2016. Per il 2017, visto che la loro abolizione con il no al referendum del 4 dicembre non è andata in porto, il taglio è stato azzerato, ma all'appello mancano 650 milioni solo per la copertura delle spese correnti. Degli altri 2 miliardi di euro di tasse automobilistiche, pensate che appena 360 milioni tornano ai territori, cioè 2 miliardi di tasse automobilistiche ne ritornano al territorio 360 milioni, investimenti scesi al 62%, del 62% in 3 anni. Le province, che però a loro carico, avendo perso tra l'altro 20.000 dipendenti, hanno 5.179 edifici scolastici, di cui 70 senza il certificato di prevenzione incendi, 130.000 chilometri di strade e almeno 30.000 tra ponti, viadotti e gallerie. E questa è la situazione gravissima, allucinante. Quanto costa mantenere un chilometro di strade? 22.000 euro all'ANAS, 6.500 euro alle province, cioè le province fanno la manutenzione praticamente con gli spiccioli, perché non hanno più soldi. E quante sono le scuole italiane a rischio sismico, per esempio? Il 41% sono attualmente, solo il 7,8% delle scuole italiane sono costruite o ristrutturate con criteri antisismici, solo il 30% delle scuole ha un certificato antincendio. Capite che la situazione è, non lo so come definirla, grave, allucinante, insomma è quella che è. Non abbiamo più voce per fare appelli, sono 2 anni che gridiamo più o meno nel deserto, protesta Achille Variati, sindaco di Vicenza, presidente dell'Unione delle Province Italiane. In passato avremmo sorriso delle proteste dei rappresentanti delle province, che avremmo immaginato solo a caccia delle loro poltrone, sempre pronti a difendere le loro poltrone. Qua però sembra che la cosa stia cambiando, perché avete sentito, la fotografia è questa: scuole e strade senza più un euro. 349-238-6666, traffico, torniamo tra un attimo. Allora, cari ascoltatori, torniamo ancora per esempio con il titolo di Libero sulla questione degli scioperi che abbiamo appena, di cui abbiamo appena letto alcune, un paio di interviste al garante per rispetto alle norme sugli scioperi e al ministro dei trasporti Delrio. Scrive Libero: hanno fermato tutto, anche il loro cervello, col solito titolo Tranchant, sciopero dei trasporti, sindacalisti incoscienti, Cobas bloccano aerei, treni, bus per rivendicare il diritto a incrociare le braccia senza rendersi conto che c'è già ed è il più garantito. Il governo li critica, però non fa nulla per tutelare chi subisce le proteste. E quest'ultima parte del titolo di Libero è lampante, è così. Abbiamo accertato prima nell'intervista al ministro Delrio, che dice: ci sono delle proposte di legge, ma abbiamo iniziato a regolamentare gli scioperi, poi ci siamo fermati, ci siamo interrotti. Ancora, il perché di questa protesta, leggiamo allora un piccolo stralcio. Il coordinatore nazionale dei CUB, perché ce lo chiedono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, che dicono anche: ma se lo sciopero, scrive Maria Teresa da Como, non crea disagi, a che serve? Certo, c'hai ragione pure te, abbiamo detto infatti che sempre nel rispetto di chi sciopera, che è un diritto di poter migliorare le condizioni di lavoro, il settore dei trasporti è un settore fondamentale, ci mancherebbe, ci sono contratti in alcuni casi fermi da tempo e quindi tutti i diritti di questo modo. Il punto è se ogni sigla sindacale, ce ne sono decine, può con uno sciopero a cui aderisce una minoranza bloccare una città, e i viaggiatori poi sono costantemente e spesso e volentieri fermi a causa del proliferare delle sigle sindacali, non del diritto di sciopero. Comunque Walter Montagnoli, coordinatore nazionale dei CUB, su Repubblica dice: la prima volta che proclamiamo uno sciopero di questo tipo, abbiamo avuto risultati importanti anche in città dove siamo presenti poco o per nulla, perché i lavoratori non ne possono più. Lo sciopero di ieri è giustificato, ne valeva la pena, anche a costo di paralizzare le principali città italiane, danneggiando fortemente gli utenti. I danni all'utenza li fa chi gestisce male il trasporto pubblico, cedendolo ai privati. La vendita delle aziende del trasporto ai privati è una delle principali ragioni dello sciopero che è stato indetto ieri dalla Confederazione Italiana Unitaria di Base, ma non la sola. Chiediamo il rinnovo dei contratti nazionali, protestiamo contro la condizione di lavoro subite dai dipendenti, a cominciare dalla quantità enorme di straordinari. E così abbiamo accontentato anche chi ci chiedeva di ricordare le motivazioni di questo sciopero. Allora, la vicenda di al-Baghdadi, il giallo sull'uccisione di al-Baghdadi, forse ucciso al-Baghdadi, scrive La Stampa, lo stesso titolo su altri giornali, forse ucciso il capo dell'ISIS su Corriere della Sera, vediamo come la tratta La Stampa, la notizia, questa volta lo dicono i russi, portano a conferma tre fonti sul terreno concordanti, foto satellitari che mostrano il compound alla periferia di Raqqa, disintegrato dai caccia bombardieri di Mosca, e dove Abu Bakr al-Baghdadi si nascondeva, il califfo autoproclamato tale, sarebbe quindi stato eliminato dall'aviazione di Putin, però ci sono dei dubbi, lo stesso ministro della difesa russo ieri ha detto dobbiamo verificare la notizia, e se devono verificare loro che sono quelli che hanno premuto il grilletto, capite che non c'è certezza. L'analisi Giordano Stabile, inviata a Beirut, sempre della Stampa, dice: senza il corpo o la conferma da parte dell'ISIS è impossibile verificare la sua morte. In passato non sono mai state nascoste le uccisioni dei loro leader, ora potrebbero aspettare però di avere un successore prima di ammettere che in effetti il loro capo è stato ammazzato. Andiamo sull'America di Trump, su Trump che presenta ancora novità interessanti. Beh, intanto ieri su Twitter Trump ha detto sono indagato, ha ammesso, sono sotto, poi lo ha detto con la sua solita ironia, sono sotto indagine per aver licenziato il direttore dell'FBI e l'artefice di tutto ciò è l'uomo che mi aveva consigliato di licenziare il direttore dell'FBI, caccia alle streghe. Così Trump, che insomma in questa storia del cosiddetto Russia Gate comincia ad averci tutte e due le gambe impigliate. Poi però la notizia nuova è questa: accordo terribile, Trump cancella l'intesa con Cuba firmata da Barack Obama, e quindi un altro pezzetto della politica obamiana se ne va. Ci avete fatto caso? Per Trump questa è una vera ossessione, questa nei confronti di Obama, perché pezzo dopo pezzo gli accordi sul clima di Parigi eliminati, l'Obamacare eliminato, adesso gli accordi su Cuba eliminati. Io capisco, perché non deve essere facile per Trump, dopo Obama, che era bello, alto, magro, figo, anche abbronzato come diceva Berlusconi, non deve essere facile reggere il confronto per lui, cicciottello e con il simil parrucchino. Però saranno 4 anni terribili questi che ci aspettano, secondo me, perché riviveremo tutto al contrario, perché Trump sembra intenzionato a smontare pezzo dopo pezzo quello che ha fatto Obama. Quindi non so se passerà alla storia come un grande presidente, ma rischia di essere ricordato come il presidente che smontava le riforme del suo predecessore. Una sorta di MacGyver, ve lo ricordate, al contrario, no? Trump. Va bene, comunque la notizia è che Trump cancella l'intesa con Cuba firmata da Obama, l'ha annunciato ieri con tanto di esuli cubani alle spalle, cancelleremo tutti gli accordi firmati da Obama, quindi niente più Cuba per gli americani intanto dal punto di vista del turistico. Siamo in chiusura, sì, dobbiamo fermarci, quindi ci ritroviamo dopo il giornale radio, più tardi con Si può fare, ciao! Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Si può fare, cronache da un paese migliore. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. So don't stop, stop. Under the lights when everything goes. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't no. Eccoci qua, 8:19 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24. Carlo, Milano Monterosa? Milano Monterosa, sole, caldo, si sta benissimo. Qualcuno dice che fa già troppo caldo, io siccome mi lamento sempre del freddo, del caldo non mi lamento mai. E soprattutto teniamo l'aria condizionata un po' più bassa, che si gela ovunque e fa male l'aria condizionata, a me fa molto male l'aria condizionata. Sembra di essere sul Cervino qua dentro, vero. In effetti, è vero. E invece ci sono zone d'Italia dove oggi pioverà, venti, piogge a raffica sul centro e sul sud. E qui invece è un'area che rinfresca un po'. Sole, ah sì, però. Sole. Sì, queste sono proprio quasi le previsioni, quasi le previsioni meteo. La nostra solita fotografia, cari ascoltatori, 800 24 00 24, scatta la convocazione per stare con noi nel tutta la mattinata e anche per giocare con noi. Naturalmente giocare. Un libro a tema vi attende. Oggi sappiate. È difficile il gioco. Oggi è più, però è divertente. È molto, molto. Beh, insomma, è la settimana nella quale ci sono state prove di convergenza indubitabili tra il Movimento 5 Stelle Grigliano e la Lega Salviniana. Perché, insomma, Zaia che dice fa ricorso contro i vaccini, che, insomma, questo è uno dei temi un po' anche del Movimento 5 Stelle, non dico il complottismo, insomma la diffidenza su alcuni temi scientifici eccetera. Dall'altra parte Grillo che dice basta migranti, chiudiamo le frontiere eccetera eccetera. C'ha infilato anche il Rom, già che c'era il Rom dentro. E quindi tac, poi c'è questo incontro segreto di cui non si sa tra Casaleggio e Salvini. Tu giustamente hai detto indubitabili, perché in realtà Di Maio ha smentito tutto, sì. E il direttore della Repubblica ha detto noi le prove ce le abbiamo, però onestamente le nostre fonti non le divulghiamo, a meno che non ci chiamate in tribunale. Chiamateci, perché non abbiamo nessun problema, sappiamo tutti che questo incontro c'è stato. Ma al di là dell'incontro sembra che proprio sugli argomenti, sulle questioni principali si trovino la Lega e il Movimento 5 Stelle. Prove di convergenza, e allora però loro negano tutto e negano l'evidenza. Allora noi vi chiediamo, che gli ascoltatori, quella volta che voi avete negato l'evidenza, perché capita a tutti nella vita di essere costretti, sì, in qualche modo, perché adesso Grillo e Salvini non possono dire ci alleiamo dopo le elezioni, perché perderebbero un sacco di voti, possono farlo magari dopo, e intanto però fanno le prove. Quindi quella volta che è accaduto a voi di negare l'evidenza, quando non so, vi hanno fotografato mentre eravate il classico con l'amante, perché la moglie vi ha fatto seguire, e voi dicevate quello non sono io, cara, no, non sono io, non so, è uno che mi assomiglia moltissimo, ecco, di questo genere. O quando non hai passato un esame all'università e dici di sì, e poi ti chiedono il libretto e dici non ce l'ho il libretto, alla mia università non hanno il libretto. Ma è andato tutto benissimo, stai tranquilla mamma, eccetera. 800 24 00 24, cominciamo però tra pochissimo occupandoci della sicurezza nei grandi eventi. Nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere, di te non gli importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti. Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, sindaco di Bari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Lei ascoltava gli 883 quando era ragazzo? Assolutamente sì. Allora, avevo scelto questa introduzione sonora perché, insomma, sono tanti gli eventi, soprattutto musicali, che erano in due, l'altro non so che fine abbia fatto. Questa è una bella domanda. Ce lo si chiede in tanti. A un certo punto era andato a Parigi e in Francia, sì, confermano anche E faceva il come si dice, il motivatore e anche tipo il ripieno di uno di questi personaggi. Non mi ricordo se Disney o dentro Disney World o in questi posti. Sì. Non era finito benissimo. No, no, però poi stava bene in realtà. Va bene. Allora, però in realtà già quando cantavano insieme ci si chiedeva che cosa facevano. Non cantavano, non suonavano. Ha spietato, De Caro, spietato. Senti qua, allora parliamo di eventi musicali, concerti. L'estate sarà piena, però adesso ci sono delle nuove normative. Il Ministero dell'Interno chiede una stretta sulla sicurezza dopo quello che è accaduto a Torino, soprattutto, principalmente. Voi avete avuto già un bel banco di prova, è andato tutto bene col concerto di Iggy Pop, siete stati forse i primi a Bari. poi parliamo anche come sì. ANCI, a fare queste prove. Sì, siamo stati i primi perché c'è stata catapultata una circolare del capo della polizia due giorni prima dell'evento, quindi già avevamo inasprito un po', ristretto i problemi, nel senso che avevamo comunque allargato la zona rossa, aumentati i controlli, però quella circolare ha messo in dubbio anche la possibilità di continuare a svolgere l'evento nel centro cittadino, perché le richieste sono davvero tante, motivo per il quale il primo giorno abbiamo pensato anche di cambiare location, però non era più possibile. Poi alla fine è andata bene, anzi è andata molto bene, per fortuna c'erano 80.000 persone, non c'è stato nessun problema, nemmeno le bottiglie per strada. Ecco, quali però sono le misure in più che sono state richieste e che siete riusciti, nonostante qualche difficoltà, poi insieme alla questura naturalmente a soddisfare? Quali sono diciamo gli standard adesso per organizzare un grande evento come può essere un concerto? Gli standard sono allargare la zona di sicurezza, quindi bisogna svuotare delle automobili un quantitativo maggiore di strade, perché quelle strade diventano vie di fuga e non ci possono essere le automobili, e contemporaneamente sono anche le zone che vanno controllate per evitare che magari qualcuno in quelle zone in un'automobile possa mettere un ordigno. È chiaro che aumentando notevolmente quelle aree che vanno svuotate dalle automobili, se continuiamo a fare gli eventi nel centro cittadino facciamo arrabbiare anche molto i residenti. Le chiusure vanno fatte il giorno prima per poter fare i controlli nei tombini, nei bidoni della spazzatura, nei cestini, e questo è un altro problema, perché le chiusure, le restrizioni al traffico e i divieti di sosta vengono anticipati. Ma poi ci sono tutta una serie di problematiche: per entrare nell'area del concerto bisogna oltrepassare un checkpoint, con i metal detector viene fatta la verifica, e la novità vera, quella più complicata, è il contapersone, che vengono contate le persone che entrano all'interno dell'area, non si può superare una determinata percentuale di persone a metro quadro, quindi non so, dipende poi dal comando dei vigili del fuoco, a noi è stato detto 1,5 persone a metro quadro, significa certo, che certo. Nell'area che avevamo predisposto inizialmente potevano entrare solo 20.000 persone, era un'area da 60.000 persone, rischiavamo di avere 20.000 persone in quell'area, due terzi dell'area vuota e gli altre 40.000 che magari stavano fuori. Poi ne sono arrivati 80.000. E come avete fatto a farli entrare tutti 80.000? Abbiamo allargato l'area, io ho provato a dire scusate, certo. Se poi credo sia peggio avere persone fuori dall'area che spingono sulle transenne perché vedono l'area per due terzi vuota, piuttosto che avere quelle persone all'interno dell'area. L'area l'abbiamo aumentata, quindi aumentando l'area, ma mantenendo lo stesso tasso di occupazione del suolo, ma le volevo chiedere, abbiamo potuto aumentare il numero delle persone. Le volevo chiedere una cosa: di tutte queste di questo lungo elenco, i controlli, i tombini, il checkpoint, il conto a persone, ma tutte queste spese ricadono sugli organizzatori? Perché abbiamo letto di questa manovrina per cui le spese di sicurezza in gran parte devono ricadere sugli organizzatori. Gli organizzatori dell'evento e non sulle istituzioni, comune, esatto, o Ministero dell'Interno per quanto riguarda la polizia. Per quel giorno avevamo già avviato tutto, una parte è ricaduta sugli organizzatori, mancavano due giorni all'evento, hanno aumentato il numero degli steward, il numero delle transenne. Ma però perché lei è un sindaco bravo e ha deciso di pagare lei? Perché io mi chiedo, magari anche dei privati più piccolini, non che fanno il mega concerto da 80.000 persone, che rischiano di dover poi trovare e non avere quei 7.000 euro di sicurezza che però il comune per fare la sagra del pesce, per esempio. Sì. Ma rischiamo di avere un costo per la sicurezza che è superiore al costo dello spettacolo, esatto, al cachet dell'artista, diventa più complicato. Ma il problema più serio che abbiamo posto al ministro Minniti è quello di capire, uno, quali sono gli eventi. Faccio un esempio per tutti: domani ho il Corpus Domini e l'arcivescovo mi ha chiesto di chiudere il corpo, la strada principale della città. È un certo evento che va sottoposto alla stessa giusto tipologia di e soprattutto controllo. Chi è l'organizzatore a quel punto? Cioè chi paga per il Corpus Domini? Non so, la festa patronale diventa un evento a rischio. O lei ha scritto a Minniti, ma Minniti, Pride, anche Minniti, il Pride le ha risposto? Minniti ha già mandato il capo di gabinetto, sì, a fare un incontro tecnico con la struttura dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, e mi ha chiamato ieri, la prossima settimana ci incontriamo, perché c'è il tema del costo, c'è il tema della tipologia dell'evento e c'è il tema anche dell'organizzazione, nel senso l'ordinanza chi le firma, esatto, mentre a Torino l'ordinanza che vietava la somministrazione, la vendita di bevande alcoliche o no all'interno di contenitori di vetro o di latta la firmava il prefetto, a Bari la firmavo io, a Bari lo stesso giorno per lo stadio, per la squadra di calcio la firmava il questore, quindi... Ma ad oggi, De Caro, noi ci prendiamo anche ad oggi quello che le voglio chiedere, ad oggi le norme sono abbastanza chiare e soprattutto il governo ci mette del suo dal punto di vista delle risorse, oppure rischia di ricadere sugli organizzatori, grandi o piccoli che siano, con spese enormi, e anche sui comuni che hanno naturalmente un ruolo, ma non saranno da soli, perché c'è di mezzo anche, oltre che la polizia municipale, ma anche la polizia vera e propria, quella dipende dal ministero dell'interno. Cioè il governo ci ha messo, vi ha chiarito per esempio lo stanziamento di risorse su questo fronte? No, non c'è ancora una norma precisa, c'è solo una circolare del capo della polizia che è arrivata a tutte le prefetture, circolare all'interno della quale vengono individuate tutta una serie di attività a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone che partecipano agli eventi. Non ci sono fondi che sono stati messi a disposizione dei comuni o degli enti locali in generale, perché poi ci sono eventi organizzati da regioni. Quindi province. L'incontro che ci sarà in settimana con il tecnico di Minniti è fondamentale per dissipare questi dubbi. L'incontro è fondamentale per capire, incontreremo direttamente Minniti in settimana, l'incontro è necessario per innanzitutto capire chi firma. Cosa. Noi ci prendiamo anche le responsabilità, l'importante è che lo facciamo tutti allo stesso modo nel paese. No, anche perché ci sono diverse questioni. Una, per esempio, è se i poliziotti impegnati in questi grandi eventi faranno degli straordinari, immaginiamo, perché dovranno lavorare di più, il giorno dopo magari non saranno in servizio in quelle periferie di cui parliamo tutti i giorni, dove ci sono le zone dello spaccio di droga, eccetera, eccetera. Certo, quindi certo. Ha ragione Macron, il presidente francese, che ha vinto le elezioni promettendo assumiamo 10.000 poliziotti, in più, perché la sicurezza è diventata una priorità nazionale. Quindi lei si aspetta dal governo anche un annuncio del genere? Ma abbiamo già avuto uno sblocco del turnover all'80% per la polizia municipale, mentre prima per ogni 10 persone che andavano in pensione ne potevamo assumere 2,5, per la polizia municipale c'è stato uno sblocco già da qualche mese con un turnover all'80%, ogni 10 persone che vanno in pensione nell'ambito della polizia municipale possiamo assumere 8. Però siamo sempre sotto. Sì, però rischiavamo di andare ancora più sotto, che rischiavamo di ridurre notevolmente. Rischiamo di essere in rosso, siamo in arancione, però comunque sì, siamo in soglia di preallarme. Sì. E poi un'altra cosa, fino a che punto, questa è una riflessione più generale che le chiedo, fino a che punto ci si può spingere secondo lei, con queste misure di sicurezza, senza vanificare, anche in qualche modo togliere a questi eventi, che sono momenti nei quali si cerca spensieratezza, allegria, serenità, fino a che punto questi controlli, le lunghe attese possono invece creare magari ansia, sconcerto, spingere a non partecipare agli eventi e quindi... Sconcerto è perfetto, direi, esatto. No? Cioè, il rischio è che invece che concerti facciamo sconcerti. No, il rischio di guardarsi gli eventi a casa quando li mandano in televisione. Sì. Sarebbe un fallimento questo, secondo sarebbe me. Un fallimento, e sarebbe la vittoria di chi poi vuole creare panico, paura nelle popolazioni, in particolare in quelle europee. Non dobbiamo farci prendere la paura, bisogna continuare. Devo dire che questi concerti, quello di Bari, quello di Imola, hanno dimostrato che comunque le persone vogliono venire in piazza. Dobbiamo soltanto cercare anche di quello di Ariana Grande i controlli. È andato tutto molto bene, sì. Sì, sì, sì. Dobbiamo soltanto capire e calibrare al meglio la tipologia dei controlli a seconda dell'evento. Un concerto rock da 100.000 persone non può essere il Corpus Domini di domenica, e quindi stilare delle linee guida. Alla fine la sicurezza va bene, perché la cosa più importante è salvaguardare e tutelare l'incolumità delle persone. Devo dire che quel giorno i controlli di sicurezza a colpo d'occhio hanno dato una sensazione di tranquillità, nel senso che man mano che le persone si allontanavano dal concerto, dalla mia città, per terra non c'era una bottiglia di vetro, non c'era una bottiglia, quindi un bicchiere di vetro, non c'era nulla. questo è, ha dimostrato che comunque i controlli hanno funzionato. Ripeto, credo sia necessario creare un sistema di controlli adeguato alla tipologia dell'evento e capire chi firma le ordinanze, di chi sono le responsabilità, chi si assume la responsabilità, creare una sorta di filiera istituzionale, ecco, se mi passate il tempo. Ma quindi secondo lei è giusto che parte di questi costi siano da parte degli organizzatori, debbano essere sostenuti dagli organizzatori? Ma io credo di no, credo che possiamo chiedere agli organizzatori di aumentare il numero degli steward, di sistemare magari un maggior numero di transenne se dobbiamo delimitare un'area, ma non... Ma l'ordine pubblico lo deve garantire l'istituzione. L'ordine pubblico lo garantisce, giusto, lo Stato. Io condivido, però purtroppo la manovrina c'è stata e al momento lo devono pagare gli organizzatori. Sì, sì, lo so. Rischiamo di non organizzare più esattamente eventi del paese, che sì, rischiamo di spostarli in altre parti. Comunque di noi siamo fiduciosi, c'è un incontro tra l'ANCI e il Ministro dell'Interno in settimana, delle cose da chiarire ci sono, De Caro è sul pezzo. Per ora si è potuto fare, si sono organizzati dei importanti eventi, è andato tutto bene, quindi evidentemente la strada la si sta trovando. Io intanto lo ringrazio, Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, sindaco di Bari. Grazie, buon grazie weekend. Mille. Grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, naturalmente, cari ascoltatori, per anche esprimere la vostra su questo punto, per dirci se quello che ha esposto De Caro vi ha convinto, se ci sono troppi dubbi, e noi siamo qua anche per sentire i vostri racconti sul giorno nel quale avete dovuto negare l'evidenza, voi o qualcuno che era vicino a voi, come stanno facendo un po' in questi giorni il Movimento 5 Stelle e la Lega, che negano queste prove di convergenza, lo negano in tutti i modi, noi la vediamo. In tutti i modi noi la vediamo. 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua alle 8:43, cari ascoltatori, ben ritrovati. Andiamo subito con Andrea che ci chiama da Salerno. Benvenuto Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Dici tutto. Io volevo intervenire per dire, abbiamo gli stadi, ogni città c'ha uno stadio dove si può parcheggiare la macchina, dove quando entrano si possono verificare persone che non stanno bene, se hanno armi. Ma perché li dobbiamo fare in piazza dove non si possono controllare queste persone? Cioè lei dice è più sicuro fare un concerto in uno stadio dove ci sono i tornelli, la sicurezza è già rodata, eccetera, piuttosto che farli però ci sono certi eventi che in piazza sono imperdibili, perché magari sono davanti al Duomo, nel senso che non è che si può fare tutto allo stadio, in più allo stadio... No, io parlavo dei concerti, sì. Non parlavo di altre cose. Ne sarà uno domenica a Milano, grandissimo, quello del famoso concerto... Dice che noi siamo così bravi di far entrare tante teste in Italia. Sì. No, beh, lasciamo stare le teste pazze, Andrea. No, la questione che pone è fondata da un certo punto di vista. A Milano, per esempio, a un concerto dove normalmente sono attese 50, 60, addirittura 100.000 persone in certi casi, quest'anno sarà consigliato l'ingresso, credo, a un quarto, fino a 25.000 persone, hanno detto gli organizzatori, l'ha detto il sindaco Sala. In piazza del Duomo. Quindi, diciamo, si ridurrà di molto l'entità, proprio per stare più attenti. Andrea dice, facciamoli tutti negli stadi. È una proposta, è un'idea. E poi bisogna mettersi in coda, nel senso che ci sono più piazze che stadi nelle città. Probabilmente. Andrea, grazie, buona giornata. Abbiamo anche, volevamo sentirlo, Angelo da Roma. Benvenuto, Angelo, vai. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Due considerazioni velocissime. La prima, credo che alla fine il costo della sicurezza non graverà sugli organizzatori, ma alla fine sempre e soltanto su chi partecipa ai concerti, perché gli organizzatori non vorranno rinunciare ai loro margini. Certo. Quindi questo sarà un altro motivo per scoraggiare la partecipazione ai concerti. L'hanno già detto gli organizzatori, infatti è molto giusta questa cosa che sta dicendo, scusi. No, la seconda cosa è che mi fanno sorridere le persone che si irritano ai controlli. Io viaggio moltissimo e vi devo dire la verità, ogni volta che mi costringono a togliere la giacca, a togliere la cintura, a togliere i liquidi, a togliere l'orologio, sono contentissimo, perché vuol dire tu che dici, ah, finalmente mi controllano. Hai ragione, cioè, anch'io la penso così, Angelo. Sì, da un lato, da un lato sì, però per esempio per tutti questi concerti adesso pare che non si possa portare nemmeno lo spray anti-zanzare, quindi non è solamente la questione del controllo, dell'invasività del controllo, ma della noia, del fatto, delle limitazioni che ci danno. Senti cosa dice Angelo. Bravo Angelo, io la penso come te, io la penso. Siamo in minoranza forse, però la penso come te, perché ce ne faremo una ragione. I controlli, la sicurezza sono sicuramente, cioè la sicurezza è un bene ultra primario, e quindi faremo un po' di coda in più, naturalmente se tutto è ben gestito e organizzato. Grazie Angelo, e poi vi aspettiamo cari ascoltatori all'800 24 00 24 anche per raccontarci quella volta che avete negato l'evidenza, perché questo ci sarebbe da ridere a sentire, per esempio, no? È un classico, tu sei lì che parli con una ragazza animatamente, la tua fidanzata o tua moglie a un certo punto poi viene lì e ti fa: ah, ma ti piace questa? Vedevo che eri molto preso dalla discussione. Tu fa: chi, lei? No, no, perché nemmeno col pensiero, no? Uno dice... E quindi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, raccontateci quelle volte che avete negato l'evidenza, un po' come stanno facendo questa settimana Grillo e Salvini, che negano che ci sia una possibile alleanza tra di loro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, due biglietti verso il paradiso. Cari ascoltatori, chiudete gli occhi e venite con noi. Salite a bordo di un traghetto ideale che ci porta tutti a Procida, nell'isola meravigliosa di Procida. È con noi il sindaco Dino Ambrosino. Io non parlo. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, buongiorno. Buongiorno sindaco, dicevo che non parlavo perché avevo gli occhi chiusi, mi stavo immaginando l'arrivo a Procida. Il mare scusa. Placido, le casette colorate, avete presente? Quella Procida, un'isola piccolissima, 4 km quadrati, tra l'altro 4 km quadrati, 4 linee di autobus e forse niente automobili quest'estate, perché avete avuto un'idea sindaco, ce la racconta? Una bellissima idea. Eh sì, noi partiamo da un problema del territorio, cioè che è un'isola piccola ma molto densamente abitata, il rapporto tra abitanti e territorio è tra i più alti per le isole quasi al mondo. Questo problema comporta che chiaramente gli abitanti si devono spostare, ci sono tante macchine e noi durante il periodo estivo cerchiamo di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico. Da una parte istituiamo fasce orarie pedonali per far passeggiare a piedi i nostri concittadini, i nostri ospiti, e dall'altra abbiamo cercato di incentivare un po' il trasporto pubblico. E qui viene la notizia, sentiamo un po'. Abbiamo fatto sì un bando per concedere gratuitamente un certo numero di biglietti dell'autobus a tutti i cittadini che mettono la macchina da parte durante l'estate, e questo ci consente di alleggerire un po' il traffico cittadino e di far godere un po' più l'isola anche ai procidani. Quindi praticamente se io dimostro di lasciare l'auto a casa mi fate andare gratis sull'autobus. Esattamente, diamo un certo numero di biglietti a tutti coloro i quali dimostrano di rilasciare per l'estate l'auto a casa. Qual è e come si può dimostrare questo? In modo particolare si può dimostrare con la sospensione dell'assicurazione, della polizza assicurativa. È una cosa che a Procida così estemporaneamente già si fa da anni, molti cittadini lo fanno proprio in virtù del fatto che viene l'estate, la bella stagione, preferiscono lasciare la macchina da parte. Noi abbiamo cercato di promuovere questa buona pratica e i cittadini che ci dimostrano di sospendere per 3 mesi la polizza assicurativa e quindi l'uso della macchina avranno gratuitamente un certo numero di biglietti dell'autobus, così possono girare comodamente in maniera alternativa. Si può lasciare l'auto per strada senza assicurazione o bisogna avere per forza garage? L'auto per strada no, chiaramente l'auto per strada senza assicurazione. I cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini ha uno spazio privato all'interno della propria abitazione. Beati voi, approcida. C'avete tutti il giardinetto, il box. Sì, il piccolo box all'interno del cortile non è un problema, per cui i cittadini già lo fanno e noi abbiamo inteso incentivare questa buona pratica appunto proponendo l'utilizzo del servizio pubblico e comunque capillare. L'isola è piccola, a dir la verità, anche si può percorrere anche a piedi. Esatto, serve a poco l'automobile, immagino, a Procida, a meno che qualcuno non abbia delle esigenze particolari. Ci sono delle esigenze particolari, per esempio quando bisogna uscire a fare la spesa, poi c'è la difficoltà di dover portare indietro tutto ciò che si compra, per cui per esempio il bus in questi casi può essere estremamente comodo. Certo, non c'è Amazon a Procida? No, ci sono dei corrieri locali, però è chiaro che il cittadino preferisce scendere lì ai negozi, fare le scelte direttamente e poi noi gli diamo sta comodità di tornare a casa con il bus, così non ha l'aggravio del peso delle buste della spesa. È un Ma modo pensa per che è bello, un'isola un senza auto ferme, uno può sentire di nuovo anche i rumori intorno a sé degli uccellini, a meno che gli autobus non facciano molto casino, sindaco. No, assolutamente no, comunque questo già accade a Procida, nel senso che ci sono delle fasce orarie in cui è vietato l'utilizzo, la circolazione dei veicoli, per cui stiamo cercando di far godere il territorio agli isolani e agli ospiti nella maniera più naturale possibile, perché riteniamo che semplicemente appunto mettendo in evidenza le nostre caratteristiche possiamo fare promozione turistica. Non ci dobbiamo inventare niente, basta proporre al meglio quello che abbiamo. Certo, ma gli ospiti invece, i turisti che vengono spesso con la macchina? I turisti vengono con la macchina solamente se sono residenti al di fuori della regione Campania, certo, perché noi abbiamo un divieto di sbarco, però la prescrizione che c'è per consentire appunto di arrivare con la macchina è che poi la loro macchina la parcheggino all'interno delle strutture ricettive dove vanno ad alloggiare, quindi non devono circolare per l'isola ulteriormente, possono solo venire e poi andare via e devono lasciare la macchina all'interno delle strutture ricettive, però io bello. Consiglio sempre ai turisti comunque di utilizzare i sistemi di mobilità pubblica, diciamo i treni e quant'altro, e di venire a piedi sull'isola, perché è un fazzoletto di terra, sono 3 km², per cui si percorrono comodamente a piedi, anzi passeggiando a piedi si può apprezzare. E i motorini, sindaco, si possono usare? Io vivo attaccato per esempio al mio motorino. Guardi, io le propongo un'altra cosa, le propongo la bicicletta elettrica, però c'è una grossissima diffusione delle biciclette elettriche che sono ecocompatibili. Perché ci sono anche delle belle salitelle, bisogna dire che delle piccole pendenze, è abbastanza piatta come isola perché non ha grosse colline, però ci sono delle piccole salite, per cui c'è anche i cittadini si sono dotati nel corso degli anni di tantissime biciclette elettriche, penso che c'è la percentuale più alta a Procida di questo veicolo. Accettiamo la proposta, comunque siamo dei fan. Tra l'altro delle in questi giorni si quindi festeggia i 200 anni dalla nascita della bicicletta, quindi invito accolto. Grazie sindaco di Procida. Grazie a voi, grazie mille. A voi. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo dopo il GR, a più tardi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ho fatto in tempo ad avere un futuro che non fosse soltanto per me, più che un'ipotesi era sicuro, era per tutti, era con te. Ho fatto in tempo a perdere tempo in cambio di un sogno, di un pezzo di idea. A conti fatti non ho perso niente, era un buon cambio, e la scelta era mia. Si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare, oppure stare solamente svegli al limite dei sogni. Al limite dei sogni. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24. E questa che abbiamo appena ascoltato è Ho fatto in tempo ad avere un futuro di Ligabue. Ed è il nostro Si può fare in musica, che ci è stata consigliata e suggerita da Mirella da Trento, che ringraziamo. Come sapete, noi siamo sempre in cerca dei Si può fare in musica. Quindi se siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di mandarcela, così noi la faremo sentire. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica alla nostra mail si può fare @radio24.it oppure sui nostri profili social, su Facebook si può fare /radio24, su Twitter @si può fare24 oppure sui nostri account personali, sul mio Facebook oppure sul mio Twitter, che è @CarloGabardini. Ho spento il microfono, c'è anche il mio @LeMaurizio. Abbiamo tutto, siamo anche a cavallo con social. Abbiamo anche Snapchat, abbiamo che anche mi fa Snapchat. Molta paura, che non so cosa sia, non voglio saperlo. Luigi da Padova, buongiorno, benvenuto all'800240024. Buongiorno a voi. Buongiorno. Voi avevate dei dubbi prima, Lega, Movimento 5 Stelle. Io sono un elettore della Lega. Sì, non è che avevamo dei dubbi, Luigi. Abbiamo detto che è stata una settimana curiosa nella quale c'è stata una convergenza di sui programmi, sui vaccini e sugli immigrati, però loro negano che ci sia questa possibile alleanza, negano l'evidenza e quindi ci incuriosiva. Io sono un elettore della Lega che voterà convintamente alle prossime politiche Movimento 5 Stelle. Qui tu sei l'incarnazione vivente. E sa quanti elettori della Lega come me voteranno Movimento 5 Stelle? No, lo dica. La gente che non ha le bandierine piantate nella testa si sta rendendo conto della truffa colossale che si sta consumando nel nostro paese. Basta guardare la Raggi. Io vedo le strade che sono state asfaltate, che costano meno del riempimento delle buche che c'erano prima, e con una differenza sostanziale, che le strade vengono asfaltate. Capisce? È un sindaco incapace. E come mai vota il 5 Stelle se ci sta dicendo che è un sindaco incapace? Perché per me oggi il paese ha bisogno di un grimaldello, ha bisogno di un piede di porco. E il piede di porco è incapace. Sono Movimento 5 Stelle, gli incapaci. Ma come? Gli incapaci del passato, che sono i leghisti, stanno governando le due regioni meglio governate d'Italia. Vabbè, Luigi, a noi ci basta che lei sia l'incarnazione vivente, in qualche modo, almeno a me personalmente basta che lei è l'incarnazione vivente di questo travaso di voti, ma anche di una possibile alleanza. Ma soprattutto di incapacità, però, perché quello che sta dicendo è che prima le meglio governate sono quelle dalla Lega, che secondo lui sono incapaci, e adesso vota degli altri incapaci che sono il Movimento 5 Stelle, se ho capito bene. Andiamo con Luisa, che chiama da Catania. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ciao Luisa. Buongiorno. Prego. Allora, io vorrei raccontare la mia esperienza del negare l'evidenza, ma io la mia diciamo un po' particolare, perché io non ho negato il fatto di aver commesso il fatto, ma ho negato l'intenzione per cui avevo commesso quel fatto. Non so se è pertinente. Sentiamo la storia. Certo, Qual era il fatto? Allora, compito di latino scritto. Sì. E premesso che io ero abbastanza brava in latino, perché non ho mai preso meno di 7, anzi spesso 8, qualche volta anche 9. Però brava. quel giorno insomma, c'era la sintassi, eccetera, insomma, era un po' difficilino, pensavo, il compito. Per cui ho indossato un vestito con delle tasche molto grandi, molto vistose. Con dentro cosa? Dentro ci avevo infilato una piccola grammatica di latino. Tutta la grammatica addirittura. Come? Tutta la grammatica, dico, non sì, un foglietto. Sì, ma era un formato Bignami, diciamo, formato piccolo, anche se le tasche erano abbastanza capienti. E naturalmente t'hanno beccata. No, ho fatto il compito, non ho avuto bisogno di usarlo, l'ho fatto e l'ho consegnato. Dopo la consegna la professoressa mi guarda il vestito, mi guarda sta cosa, ma non credo che in quelle tasche c'è nascosto qualcosa. Io disinvoltamente prendo il libretto, dico sì, certo, l'ho portato. Dico però, io non l'ho portato con l'intenzione di usarlo, l'ho portato solo per conforto morale, perché avendolo io mi sentivo sicura, mentre se non l'avessi avuto mi sarebbero venuti mille dubbi. Ma non, cioè, è bellissima, però non credo che la prof ci sia cascata in questo abile trucco, Luisa. Non, No, sentiamo. Mi scusi, la professoressa ha sorriso, però non saprò mai se l'ha accettata oppure ha fatto finta di crederci. È rimasta così. Vabbè. Comunque il compito è andato bene. Bella. Il compito è andato bene alla fine. Sì, perfetto. Beh, ha avuto Luisa, ha avuto la prontezza quantomeno di cambiare in corsa la giustificazione di un atto che non ha negato, ma ne ha negato l'intenzionalità, e quindi andando a ricercare dentro di sé una motivazione alternativa al fatto di potersi portare una grammatica per conforto morale. Beh, questa non è male, Luisa. Complimenti. Vittorio da Roma, benvenuto. Sì, buongiorno, io sono buongiorno. Invece al contrario di quel vostro ascoltatore di Padova, un elettore di 5 Stelle che seguirà a votare 5 Stelle. Sì. Vi volevo chiedere... Sarà in compagnia di lui, dell'ascoltatore di prima, però, perché voterà... Ho sentito, lui si è definito elettore della Lega che voterà 5 Stelle, ma volevo chiederle, senza nessuna vena polemica, ma avete riguardo alle vostre certezze di evidenza di un accordo probabile tra 5 Stelle e Lega, al di fuori di eventuali argomenti su cui si può trovare o si può arrivare a una convergenza? Voi avete le stesse fonti attendibili che c'ha il direttore del Corriere della Repubblica, perché quelle sono fonti un pochino strane. Cioè, questa vostra certezza di evidenza, ma da dove viene? Che fonti sono quelle strane? Lo dovrebbe chiedere al figlio del commissario Calabresi. No, lo chiediamo a lei, visto che ci dice. Io le fonti non le conosco. Vabbè, allora come fa a definirle un po' strane? Perché non sono state rese note. Ma perché non si dicono le fonti, è deontologia proprio professionale, questo è giornalismo. Lei scusi, adesso mi permetto di chiedervi una scusa. Io non conosco i vostri nomi, ma il signore con il quale ho parlato adesso per ultimo, quello c'ha un pochino la R francese. Cioè, sono io, Carlo Gabardini. Carlo Gabardini, io mi chiamo Vittorio Di Battista. Io volevo dirle, se io... Ma è parente di Battista? Ma come vede, credo di essere una persona piuttosto obiettiva. E poi reputo di avere la mia idea, la mia testa e le mie capacità decisionali, ancora, e ci mancherebbe. La mia età. Ma poi è un grande onore avere il papà di Battista in onda, assolutamente. È vero. Scusi Vittorio, scusi un attimo, la questione è, al di là della notizia sull'incontro tra Salvini e Casalè, all'evidenza e alle fonti. Io sono partito da un altro ragionamento. Ho detto, in questa settimana, settimana c'è stato il ricorso del presidente del Veneto Zaia sulla questione dei vaccini, che è un bravo, vedi, da lettore il fatti. Quindi c'è una convergenza programmatica. Allora, siccome si nega che ci possa essere questa convergenza programmatica, che invece nei fatti c'è, allora noi abbiamo detto negare l'evidenza. E questo è il punto, Vittorio. Si nega l'eventualità o la possibilità di convergenza. La Lega al Movimento 5 Stelle, perché non, proprio Salvini ha detto, Vittorio, mi faccia finire un attimo. Salvini ieri ha detto se c'è una convergenza programmatica, ben venga. Invece, programmatica, però è una differenza sostanziale. Ma infatti non c'è nulla di male, sarebbe molto meglio dirlo. Non sto dicendo che c'è qualcosa di male, anzi, però dico io, se invece la Repubblica o lei mi passa dalla una ipotetica probabile convergenza programmatica su alcuni punti a una notizia spaventosa. No, vabbè, ma lasciamo stare la notizia dell'accordo segreto. A me personalmente quella cosa non mi interessa. I politici fanno un sacco di accordi segreti. Vittorio, però mi tolga una curiosità. Lei è il papà di Di Battista. Tutti dicono che lei ha avuto un passato fascista. Non lo dicono tutti, lo dico io. Lo dice lei. Non è un passato, adesso non cerchiamo di ricreare delle polemiche artefatte su queste mie culture ideologiche. Io ho le mie culture ideologiche tutt'oggi. Cosa rivendica? Ma mica vorremmo aprire una discussione su qual è il mio fascismo, se lei, come immagino, lei abbia una notevolissima cultura. Se lei per esempio va a vedere la storia dei sindacalisti rivoluzionari dei primi del secolo XIX. No, ma infatti guardi, non riapriamo, Vittorio, ha ragione lei, io era solo una curiosità, era per sapere se era una leggenda metropolitana o se è la verità, visto che lei è in onda. Lei è fascista? Assolutamente sì. Ah, vabbè. Allora, io per me la facciamo anche finire. Io invece non ho capito. Io invece non ho capito la domanda che mi stava facendo, perché in realtà non ha parlato con me, che sono Carlo Gabardini, ma era Alessio. Le chiedo scusa. Gliela rifaccio la domanda. Sì. Se io dicessi, naturalmente è una provocazione assurda. Sì. Se io dicessi, due persone mi hanno detto che Carlo Gabardini c'ha le corna. Sì. E Carlo Gabardini mi dice, io non ho neanche una compagna, una moglie o una fidanzata. Sì. Ma è evidente che Carlo Gabardini non ha le corna. Questo dico, cioè, ma però mi scusi, il ha ragionissimo, ma il giornalismo è un'altra questione, nel senso che nel momento che io ho delle fonti non posso mettere in piazza le mie fonti, perché probabilmente perché le devo proteggere. Il giornalismo adesso c'ha, secondo me, ha cambiato e c'ha naturalmente le sue regole, che sono regole, dal mio punto di vista, di obbedire al fornitore della greppia. Però adesso le posso fare una domanda io, perché sono curioso. Mi fa le domande, non mi fa rispondere, io mi trovo un po' in difficoltà, come vede. No. In che senso non la faccio rispondere? Non ho ancora fatto la domanda. Lei Carlo, dica. No? Come? Le corna lei ce l'ha. Ah, no, io no. Allora io prendo atto che lei non ce l'ha. No, non ce l'ha, ma non ho nemmeno una fidanzata, perché è un fidanzato, quindi è tutto più complicato. E ci sono qua anche i suoi genitori a Milano in questo momento. Ma comunque io le volevo chiedere un'altra cosa. Sì, giustamente lei, riguardo alla cosa che mi ha chiesto lei, ovvero dell'incontro fra Casaleggio e Salvini. Sì. Poniamo che Di Maio ha espressamente, tutto il 5 Stelle, ha detto questo incontro non c'è mai stato. Sì. Se invece viene fuori e si scopre che questo incontro c'è stato, possiamo dire che forse allora a questo punto Di Maio può non fare il premier di questo paese, nel senso che se lui così convintamente ci sta dicendo non c'è stato, e se invece non c'è stato l'incontro, giustamente pagheranno. Vabbè, gli altri. Domanda chiara, risponde il papà di Di Battista. Rispondo chiaramente, se per caso questo incontro ci fosse stato, sì, e Di Maio ed altri negano che ci sia stato, sì, allora non si tratta di non essere degno di fare o candidarsi alla carica di Presidente del Consiglio, si tratta di essere un piccolo testa di cazzo che è stato, come dire, travolto dagli eventi. Questo è il mio giudizio. Però testa di cazzo non è sufficiente per non diventare il nostro premier. Qua io ringrazio Vittorio. Perfetto, la ringrazio perché dobbiamo. Io sono felice di aver parlato con lei. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Grazie mille. Buon sabato. Era il papà di Di Battista. Una lunga chiacchierata. 800 24 00 24. Torniamo tra pochissimo dopo il traffico. Siamo in ritardo, ci scusiamo con i colleghi. Tra poco. Si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, ma te pensa, ci ha chiamato il papà di Di Battista. E volevo se l'è anche presa per questa cosa dell'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Giustamente stava precisando. Sì. Io in realtà stavo ripensando alla domanda che mi ha fatto lui e probabilmente ho risposto male, perché se due persone dicono che io sono cornuto, molto probabilmente, e io sostengo di non esserlo, è più facile che in realtà io lo sia cornuto, perché effettivamente se loro due hanno le prove della mia e io probabilmente negherò il mio essere cornuto, quindi forse ho sbagliato prima a rispondere. Però ho apprezzato molto che dicesse che io ho un R francese, perché di solito magari in modo più spregiativo uno dice R moscia o difetto di pronuncia, e invece io ringrazio moltissimo il padre di Battista che dice che ho un R francese. Allora, adesso però è arrivato il nostro momento, perché dopo tutte queste notizie funeste, tante notizie funeste, dopo Russia Gate, dopo la baruffa in Parlamento sullo Ius Soli, dopo la baruffa tra noi e il padre di Battista sull'alleanza del Movimento 5 Stelle e la Lega, adesso momento delle migliori 5 notizie della settimana. Si può fare. Give me five. All right. Give me five. All right. Allora, cominciamo con Pavia, dove il comune di Pavia ha deciso di destinare 300.000 euro per la realizzazione di idee proposte dai cittadini tramite il bilancio partecipativo, dal recupero di aree degradate alla valorizzazione dei luoghi storici. 150 proposte sono arrivate al comune, che poi deciderà quale realizzare. Quindi viva la partecipazione, viva Pavia, bravi! E al quarto posto invece andiamo a Taranto, Rione Tamburi, un quartiere che solitamente di cui sentiamo parlare per l'inquinamento, il degrado, l'altissima percentuale di tumori, è un quartiere di 20.000 abitanti che ha deciso di restaurare il teatro parrocchiale con l'aiuto di falegnami e sarte provenienti dalle fasce disagiate del quartiere. Quindi è un si può fare di Don Nino Borsci, il rettore della parrocchia di San Francesco. Bravo. Di Geronimo, che si è fatto promotore insieme alla Caritas e ad altri altre associazioni, ha portato avanti e sta portando avanti questo progetto singolare per il quale gli facciamo l'in bocca al lupo. Viva Taranto! Siamo al terzo posto. Questa notizia che viene dalla Colombia, della serie Ognuno ami chi gli pare, tutti siamo più felici. Sentite qua, c'è la prima famiglia poliamorosa, perché in Colombia è stato ufficializzato il matrimonio tra tre uomini. Bene sì, sono Manuel Bermudez, 50 anni giornalista, Victor Hugo Prada, 22 anni attore, e Alejandro Rodriguez, 36 anni personal trainer. Si sono sposati in tre. Congratulazioni. E tra l'altro è una risposta anche al padre di Battista, perché forse nel caso io non sarei cornuto, ma saremmo in tre. No, in realtà sono per il matrimonio tradizionale anche fra due uomini, comunque. Ma arriviamo al secondo posto. Torna in Italia Zeus in trono, una statua. Il Museo Getty di Los Angeles restituisce la statua, che è risalente al primo secolo avanti Cristo, che era stata acquistata in modo poco chiaro dal Museo Getty nel 1992. Non è un unicum questo, perché il Museo Getty ultimamente ci ha abituato a una lunga serie di restituzioni volontarie che ha effettuato negli ultimi 20 anni, e siamo felicissimi del ritorno in Italia dello Zeus in trono. La prima notizia è questa qua, siamo molto contenti di poterla dire: sono stati stanziati alle regioni 86 milioni di euro dal governo per la legge sul dopo di noi, che sostiene le persone disabili, come sapete, nel momento in cui dovessero e dovranno perdere le loro famiglie. Quindi tutte le regioni hanno presentato i piani operativi per spendere questi soldi per le persone disabili, tranne la Val d'Aosta, che non si sa perché. Facciamo un appello anche a loro: Val d'Aosta, fate anche voi il piano operativo sulla legge sul dopo di noi. Molto bene, avanti così, vai. Ok, andiamo con... abbiamo ancora un ascoltatore, sì, sentiamo Nicola che ci chiama da Torino all'800 24 00 24. Vai Nicola. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo fare una testimonianza, una riflessione veloce. Il giorno della partita della finale, no? Io con l'autobus devo attraversare il centro, come in parte c'era anche la deviazione, no? La via 27, invece di passare per Piazza Castello, ci hanno portato in corso Giulio Cesare. E nel frattempo era piena di vigili, chiedo scusa, e polizia, che per le macchine che le facevano deviare, mi deve credere, no? Già tante, erano le 6:30, già tante bottiglie di vetro per terra, tutto quello che affluivano i ragazzi. Sì, vabbè, ma questo è quasi diventata storia, Nicola, lo sappiamo che in effetti... No, sì, però dico io, no, sì. Passavano davanti ai vigili con le bottiglie in mano, capito? Adesso, cioè i vigili non si sono accorti di questa cosa. Non si sono accorti, non potevano non vedere. Sa, non Nicola, voglio... sa Nicola, io non voglio dare, l'ultima cosa voglio dire, prego. No? Il signor Di Battista poteva evitare di fare la domanda a Carlo, no? Io pensavo che l'unico stupido della famiglia era il figlio, invece il padre è più stupido del figlio. Ridiamo perché la battuta ci sta. Ma invece io non mi sono sentito, non c'è stato nessun problema. Penso che invece sia stato anche cordiale, cordialissimo il padre. Prego. È una mia opinione, Me ne assumo la responsabilità. Io pensavo che era l'unico stupido il figlio, invece il padre è più stupido del figlio. E l'abbiamo ridetta. Nicola, grazie. Buona giornata. 800 24 00 24. Non mi accodo agli insulti. Devo solo dire una cosa: che stamani sentite più ascoltatori del solito, perché c'è saltato un ospite. Dovevamo avere una telefonica, lo diciamo, col sindaco di Amatrice Pirozzi. Sì, Claudia Schiattore dice: non dovevi. Invece lo diciamo, perché se magari qualcuno gli dà una gomitata, dice: sindaco, accendi il telefonino. Perché è chiaro che quell'uomo lì c'ha un sacco di impegni. Tra l'altro, parte allenatore sta allenando terremotati. Che è una bella notizia, anche quella da. Esatto, da e dare. La notizia bella, ve la diamo comunque, è questa: l'Europarlamento ha dato l'ok, il via libera, a destinare fondi europei alla ricostruzione dopo le calamità naturali e disastri naturali, e ha inserito anche naturalmente il terremoto in centro Italia, quindi arriveranno dei fondi europei ad Amatrice, ad Accumoli e non solo, per ricostruire. Noi volevamo... E soprattutto, scusami se aggiungo, in realtà la notizia è che questi fondi europei potranno coprire fino al 95%. Certo. Delle opere di ricostruzione, perché si era addirittura, l'Europa aveva proposto il 100%, poi i tedeschi, insieme agli amici dei tedeschi, avevano detto loro, facciamo il 90, e invece si è trovato una media che è il 95%, ma è una notizia ottima e incredibile, perché vuol dire che tra il 2014 e il 2020 dovrebbe arrivare 1 miliardo di euro per la ricostruzione, che si aggiunge al 1,3 miliardi degli altri fondi europei. Quindi siamo una contenti, volta l'Europa siamo molto contenti. Ci aiuta e ci serve. Esatto. Se qualcuno vede nei paraggi il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e non è troppo impegnato, fatevi un colpettino col gomito, che noi qui a Radio 24 volevamo parlare con lui di un sacco di cose, anche perché vogliamo sapere per chi si candida, perché sembra la persona perfetta, perché è sia Renzi sia la Meloni sia la destra, tutti lo vogliono, e quindi forse è finalmente il leader di tutta Italia. Torniamo tra poco con Crowd Me Up. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Eccoci qua, allora è il momento, come ogni sabato mattina, di dare spazio a due storie, due progetti sociali e imprenditoriali che cercano il nostro e il vostro aiuto, cari ascoltatori, i progetti di crowdfunding, e quindi sentiamo subito gli ascoltatori che saranno la nostra giuria popolare anche oggi. Angelo da Roma, che abbiamo già sentito prima, di nuovo ben ritrovato Angelo. Sì, grazie. Eccolo qua, e anche Luisa da Catania, di nuovo buongiorno. Eccomi. Luisa, benissimo. No. Allora, voi siete i nostri giurati, state concentrati, state sul pezzo e cominciamo. E con le palette in mano. Eh sì, perché oggi sono due progetti particolari che fanno parte della rete OSO, Ogni Sport Oltre, la prima piattaforma digitale che mette in comunicazione persone con disabilità e mondo dello sport. Vai. Finalmente una sigla in italiano, volevi dire. Bravo, veramente. Un acronimo in italiano. Ce la possiamo fare. Primo progetto. L'associazione sportiva Cinque Anelli di Suzzara, in provincia di Mantova, composta da professionisti, atleti, educatori, vuol mettere le proprie competenze e capacità al servizio delle persone con disabilità motorie ma anche cognitive. Ma per trasformare davvero l'espressione diversamente abili in ugualmente sportivi bisogna investire in attrezzature idonee, manifestazioni e formazione. Quindi servono 26.300 euro. Ce ne parla Marco Reami, vicepresidente dell'Associazione Sportiva Cinque Anelli. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché sostenere questo bellissimo progetto. Vai. Ma allora, tutto nasce per caso, tutto è partito nel 2010 durante una gara di biathlon nel nostro paese, si parla di panca e di corsa, quando la nostra presidente Michaela chiese ad un ragazzo della mia età perché non si fosse iscritto alla gara di corsa, ma solamente alla gara di panca. Lui rispose alzando la gamba, che ovviamente era una protesi. Da quel giorno iniziò un'avventura che ci portò fino alla vetta più alta, che erano le Paralimpiadi di Rio 2016 per noi. Un'avventura fatta ovviamente di sacrifici, vittorie, scusate, e anche di sconfitte, ma soprattutto fatta da persone che, conoscendo la nostra realtà, ci hanno dato fiducia e hanno iniziato con noi un percorso sportivo. Ma anche uno staff sempre più qualificato e specializzato per le attività sportive adattate, che si pone con il massimo impegno per potenziare e migliorare questo settore. Tutto questo però per noi non è mai abbastanza. Per ora abbiamo aperto solamente una porta, vogliamo aprire anche la seconda alla disabilità. Un portone volete aprire? Sì, grandissimo. Giusto. Offrire ovviamente le nostre competenze, le nostre capacità al territorio. Gong. Chi vuole intraprendere un percorso sportivo di salute. C'è stato il gong. Devo chiedere una cosa. Come mai chiedete 26.300 euro? Come mai una cifra così precisetti? Perché investire in attrezzature e aggiornare sempre e costantemente il nostro staff sulle ricerche medico-scientifiche è veramente, veramente impegnativa. No, ma io, ma scusa, voleva sapere i 300 euro. Chiedevo come mai era una cifra così precisa, perché immaginavo che dietro ci fosse, non lo so, un preventivo, un progetto molto preciso, dei soldi già allocati in qualche modo. Sì, beh, certo, noi abbiamo presentato un nostro business planning dove comprendevo ovviamente tutto il lavoro da svolgere, che riguarda anche il marketing e tutto quello che poi ne concerne. Okay. Perfetto. Senti Marco, un'altra curiosità che ho io, ti voglio chiedere, perché ultimamente lo sport paralimpico, visto la storia che ci hai raccontato, ha molto spazio a livello anche mediatico, grazie anche a testimonial incredibili come Alex Zanardi o Bebe Vio, certo. Ma a livello proprio di sport praticato, sta crescendo lo sport? Sì, beh, diciamo che noi siamo la prima società in Italia ad avere un paralimpico alle Paralimpiadi, E tutto è nato con questo ragazzo che si chiama Matteo, e noi siamo la prima società ad aver fatto partire, diciamo, il progetto. Dopo da lì negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, si è, diciamo, la macchia si è espansa. Molto bene, molto bene. Grazie Marco. Sì, prego. Un po' più concreta. Forse siamo in alcuni paesi, poi dipende anche dove guardiamo, perché se guardiamo a chi è più avanti di noi, ed è giusto farlo, però probabilmente l'Italia e anche i risultati raggiunti lo dimostrano, possiamo migliorare, ma sicuramente, insomma, ci stiamo impegnando su questo fronte. Grazie Marco, resta naturalmente in collegamento, così come Angelo e Luisa, i nostri giurati. Adesso è il momento di presentare il secondo progetto di oggi, che, come detto, abbiamo fatto una scelta. Anche questo progetto appartiene alla rete Ogni Sport Oltre. Vai. Qua stiamo parlando di un progetto che si chiama Insuperabili, un progetto che nasce a Pisa per dare vita ad una squadra di calcio a 5 integrata, cioè composta da ragazzi con e senza disabilità intellettiva, con e senza sindrome di Down. Per realizzare questo sogno servono 9.000 euro. Ce ne parla Alessandra Testi della Onlus AIPD di Pisa. Benvenuta Alessandra. Ciao, ciao. Buongiorno. Ciao. Anche ciao. A te un minuto di tempo, ma anche di più, per spiegare come possiamo sostenere, perché possiamo sostenere questo bellissimo progetto. Perfetto, allora io partirei subito dal titolo del progetto, che è Insuperabili, cioè creare un gruppo unito e pronto per superare i propri limiti. Diciamo che noi ci siamo posti l'obiettivo di creare questa squadra integrata proprio per dare un passepartout che secondo noi è fondamentale, cioè una lingua comprensibile a tutti, che è quella dello sport. L'obiettivo è quello di dare una risposta ai ragazzi che hanno voglia di fare sport, e siamo partiti proprio dal calcio, perché è uno sport che abbiamo visto che interessa a molti dei nostri ragazzi, per poi aprirci ad altri sport. E è anche una risposta secondo noi alle famiglie dei ragazzi, che cercano appunto sempre di più, come appunto anche noi operatori, l'obiettivo di rendere i ragazzi sempre più autonomi e indipendenti, e crediamo fortemente che lo sport possa essere questo, cioè una chiave di volta per aprirci ancora di più all'autonomia, che poi appunto è l'obiettivo della nostra associazione. Guarda, sì, com'è stata brava che Alessandra, che sul gong si è zittita, però ti diamo un'ottima sintesi. Ti diamo un diritto di conclusione, finisci ecco. Pure. No, ecco, appunto, cioè, la cosa importante che mi preme dire è che rimaniamo sempre con il nostro obiettivo principale, che è quello dell'autonomia e del rendere i ragazzi indipendenti, quindi anche lo sport, quindi tutto quello che c'è dietro allo sport, quindi negli spogliatoi, la relazione, è tutto un corollario che poi porta all'autonomia, ecco, questo è importante. Senti, voglio chiederti una curiosità, sì. Funzionano queste squadre integrate? Cioè si riesce a ottenere quali risultati grazie a questa idea della squadra integrata? Beh, sicuramente gli obiettivi, appunto, come dicevo prima, che sono importanti, sono la relazione e l'autonomia, però è anche vero che noi a Pisa siamo riusciti a creare delle relazioni extra il nostro gruppo dell'associazione dei ragazzi, perché appunto c'è comunque un allenatore, ci sono dei volontari che non hanno disabilità, e poi anche abbiamo creato una relazione con il territorio, perché abbiamo appunto fatto degli allenamenti in un campo dove vanno anche altri ragazzi, okay. Quindi insomma crediamo che la relazione ma sia anche importante. come giocatori ci sono è integrata, giusto? Sì, assolutamente. Noi, certo. Per dire, nella nostra città siamo andati agli allenamenti della squadra del Pisa, insomma, certo. C'è stata una collaborazione attiva anche con le squadre di calcio. Ma potete prendere anche Ronaldo e farlo giocare in squadra? Beh, volendo potrebbe essere un'idea. Quella mi sembra. Beh, la squadra del Pisa di calcio, tra un fallimento e l'altro, siete riusciti a inserire. Il budget è un po' più basso, certo. Certo. Se no non sareste qua. Bisogna spaccargli una gamba prima. Alessandra, adesso è il momento dei nostri ascoltatori. E quindi io chiedo a Luisa da Catania, quale dei due progetti, che sono progetti ugualmente importanti e anche simili, diversamente abili, ugualmente sportivi, di Suzzara, Mantova o Insuperabili di Pisa. Luisa, quale dei due progetti ti sentiresti di sostenere? Allora, onestamente sono bellissimi tutte e due e non saprei scegliere. Posso dare un pareggio oppure devo per forza scegliere? Devi scegliere, Luisa, è la regola ferrea. Dai, facciamo il primo. Il primo. Ma onestamente sono tutte e due bellissime. Va bene, c'è una motivazione particolare? No, perché sono, avresti votato... Sì, ce l'ho. Sì. Ce l'ho. Perché sono intanto sensibile ai disabili, poi ho qualche disabilità importante, per cui diciamo sono parte in causa. Perfetto. Però teniamo buono il voto lo stesso. Anche... Benissimo. Grazie Luisa. Grazie mille. Andiamo con Angelo, che chiama da Roma. Anche a te Angelo chiedo di fare una scelta, se è possibile, ma insomma... E in effetti in questa giornata qua varrebbe anche l'exequo, in effetti, perché adesso sono non due si progetti può, molto simili. Però non l'abbiamo fatto per Luisa, quindi anche per te Angelo devi dire quale dei due. Beh, effettivamente è durissima, però mi ha colpito moltissimo il secondo per la questione dell'integrazione tra normodotati, parola terribile, sì, e persone con problemi. Sì, è vero, brutta, normodotati è bruttissima come parola. Però perché... insomma, abbiamo capito, l'integrazione tra ragazzi con sindrome di Down, ragazzi... Perché non ce molto l'hanno. Spesso questi ragazzi, tra le altre cose, soffrono anche di emarginazione, solitudine, isolamento, e se c'è qualcuno che ha pensato di integrarli tramite lo sport, certo. Anche questa cosa è veramente fantastico, però anche il primo, per carità. Va bene, perfetto. Angelo, tra l'altro resta con noi in collegamento se vuoi, perché magari puoi raccontarci anche, puoi darci parole anche sul resto della trasmissione, perché so che volevi intervenire. Però è il momento di ringraziare i nostri due testimonial, Marco Reami di Diversamente Abili Ugualmente Sportivi, grazie, e grazie a voi della disponibilità, anche Alessandra Testi, grazie dell'IPD mille. Di Pisa, per grazie. Il progetto Insuperabili, praticamente è un ex aequo. Avete vinto tutti e due, e come sempre ricordiamo che l'importante è andare su Apple a fare un piccolo gesto e dare una mano a questi progetti che sono ugualmente importanti e vincenti. Trovate tutto tra l'altro anche sulla pagina Cloud Me Up, sulla pagina di Si Può Fare, sul sito di Radio 24. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, questa mattina cari ascoltatori, l'800240024 vi stiamo anche chiedendo quella volta che avete negato l'evidenza, un po' come stanno facendo Grillo e Salvini sull'ipotesi di un'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ipotesi che sembra corroborata da diversi fatti ma che viene sostanzialmente negata. Angelo da Roma, forse volevi dirci quella volta che è capitato a te di negare l'evidenza. Sì, mi è capitato effettivamente. Devo raccontarvi un piccolo antefatto. Io sono un ingegnere aeronautico. Sì. All'ultimo anno gli esami venivano seguiti, i corsi venivano seguiti da una, due, tre persone al massimo, perché erano iper specialisti. All'esame il professore mi fa: ma lei ha seguito tutte le lezioni, complimenti. Io non l'avevo mai visto il professore. Tant'è che me lo sono dovuto far indicare da altri colleghi che facevano l'esame. Ma lui ti stava pigliando in giro oppure stava... Questo è stato il mio grande dubbio, perché ho detto, se dico di no mi metto in cattiva luce, perché ovviamente i professori vogliono. Se dico di sì, però... Se dico di sì, magari mi stava prendendo in giro, mi voleva mettere alla prova. Ho negato clamorosamente l'evidenza dicendo: beh sì, ho perso qualche lezione, ma sostanzialmente le ho seguite tutte. Più che negare un'evidenza, direi che hai confermato una menzogna. Così. Più o meno. In realtà credo che mi avesse scambiato per qualcun altro. Sì, se il professore ci sta sentendo, speriamo che chiami per ritirarti la laurea. Sto scherzando, ovviamente. O per darti un premio alla destrezza, perché sei stato molto gamba a cavartela con una via d'uscita così improvvisata, ma è sempre l'improvvisazione, è un grande talento che salva tutti nei momenti di grande difficoltà. Angelo, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ma c'è ancora tempo per chiamare 800-24-0024. Every second seems a little longer. You fall down the floor. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. problem, come where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. We all have dreams, hopes and desires. The wait is long, it's pressuring you. Life has a way to turn it all over, and I believe it is true. Every day you're getting stronger. Don't you feel life is a little better? Feels so good when it's all over, when it's all moving a little slower. Can we slow down the floor? Every second seems a little longer. Can we slow down the floor? Con questa Slow Down the Flow di Tal, rallentare il flusso, ma avremmo potuto tranquillamente introdurre Marco Boschini, coordinatore dell'Associazione Comuni Virtuosi, organizzatore del Festival della Lentezza. Buongiorno, benvenuto. Ciao. Grazie, Marco. Buongiorno a voi. Bene, buongiorno. Avremmo potuto, mi rendo conto adesso, introdurre con un bel Capossela, perché Capossela è uno dei testimonial del Festival della Lentezza. Sì, ieri ti ha fatto una sorpresa, non era in programma, sì. È venuto a passare tutta la giornata insieme a noi. Ho visto le foto su Facebook e era un po' invidioso, perché noi eravamo qui a Milano al caldo e basta, e voi eravate lì a Colorno a godervi al caldo anche noi. Al caldo, però a godervi Capossela e anche questo festival che torna quest'anno. Siete giunti a che edizione, Marco? È la terza edizione. Terza edizione, allora andiamo per ordine. Marco, noi siamo degli appassionati, noi siamo tutti appassionati gli anni. Di Capossela, del Festival della Lentezza, dell'Associazione Comuni Virtuosi. Facciamo tutto quello che possiamo, perché quanti comuni siete adesso radunati in questa associazione che promuove buone pratiche, ma veramente dovete andare a vedere le cose che fanno, sono straordinarie. Quanti siete adesso, Marco? Siamo arrivati a 100, aspettiamo l'altro, per così siamo alla carica dei 101. Per scollinare. Ah, perfetto, ma perfetto. Ci sarà un giorno nel quale vi dovrete fermare perché, che ne so, o per un motivo scaramantico o perché le buone pratiche sono finite? Allora, sicuramente sono molti di più i comuni virtuosi che magari non lo sanno o che noi non conosciamo loro. Quindi, o che non lo dicono. O che non lo dicono. Io devo dire che rispetto a quando siamo partiti 13 anni fa, a livello culturale, non solo grazie a noi, grazie alle tantissime realtà istituzionali non che su queste cose lavorano e che molte delle quali voi ospitate nella vostra trasmissione, la cosa si è diffusa molto e noi andiamo avanti, perché l'obiettivo è arrivare ad avere tutti i comuni italiani. È mai successo che un comune uscisse dall'Associazione Comuni Virtuosi perché dopo aver fatto delle cose buone ne ha fatte troppe cattive? No, non credo che sia mai successo. È successo, ahimè, ci è capitato di espellere noi dei comuni, sì. Non necessariamente perché è cambiata l'amministrazione da un punto di vista della colorazione, certo, politica, ma semplicemente perché cambiando le persone cambiano le emozioni, le visioni, e quindi illegittimamente cambia anche il modo di far politica. Però se non si rispettano i parametri dell'associazione, noi è giusto perché è un'associazione seria. Adesso parliamo del festival, però a questo punto ti voglio chiedere di ricordarci quali sono i parametri dell'associazione. Voi avete scelto di misurare le buone pratiche con le stelle, le 5 stelle, prima che nascesse tra l'altro il Movimento 5 Stelle, sì, quindi esatto. Non avete nulla a che fare con loro né con altri partiti, perché l'associazione è apartitica ma non apolitica, fate politica ma non siete fiancheggiatori di nessun partito, questo ci piace. Esatto, ci teniamo molto, chi legge, chi vede i progetti che raccontiamo sul nostro sito si fa un'idea della nostra visione politica, però noi siamo aperti e accogliamo tutti, non ci sono delle barriere preventive o dei pregiudizi a seconda di da dove provengano le amministrazioni che ci fanno richieste di adesione. Noi guardiamo le categorie, la gestione del territorio, i rifiuti, la mobilità, l'energia, gli stili di vita, insomma tutto quello che ha a che fare sotto il grande cappello dell'ambiente. Tra l'altro, se posso, esatto, Marco, se posso dire un piccolo inciso che mi riguarda personalmente, perché voi mi avete chiesto in un paio di occasioni di essere di fare parte della giuria di esperti giornalisti che possono valutare i progetti presentati al concorso per il comune più virtuoso dell'anno. Io personalmente non ho mai guardato, lo dico con estrema tranquillità, da chi fosse amministrato in quel momento lì il comune che presentava, anche perché ci sono talmente tanti comuni che si diventerebbe matti a fare questa verifica, però insomma questo sì, è lo spirito. Siamo un paese che è talmente abituato a ragionare per fazioni che non ce ne frega farlo, niente, e esatto. Per questo è una buona pratica. No, non ce ne frega niente, guardiamo la sostanza delle cose. Cosa accade in questi giorni a Colorno, alla Reggia di Colorno, con questa terza edizione del Festival della Lentezza, Marco? Allora, quest'anno abbiamo come tema, come idea poetica, il cammino. Abbiamo cercato di costruire un programma culturale che ha più di 40 eventi che si snodano appunto da ieri fino a domenica sera qui nella Reggia di Colorno, in provincia di Parma, e affrontiamo il cammino sotto tanti punti di vista. Il cammino interiore, quindi la crescita che ognuno di noi fa attraverso le grandi scelte della vita, ma anche le piccole azioni quotidiane. Il cammino legato al turismo, perché sono qui a Colorno appunto molti dei nostri comuni virtuosi con i loro stand e con le loro buone pratiche. Il cammino anche quello della fuga, parleremo di accoglienza, di migranti, un tema attualissimo che viene raccontato e affrontato in maniera assolutamente superficiale. Noi lo vogliamo fare con la nostra vena positiva, raccontando le esperienze di integrazione che sono possibili nonostante tutto quello che ci viene detto. Il cammino della ricerca, affronteremo il tema della malattia. Noi ci vergogniamo delle nostre malattie, invece dobbiamo poter parlare con serenità, con lucidità, perché c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di comunità e c'è bisogno di condivisione. Quindi tante cose lo faremo con leggerezza, tutte queste cose, ci sono laboratori, incontri, le famiglie sono protagoniste con un sacco di esperienze e di iniziative, quindi aspettiamo tutti a Colorno. Esatto. Grazie Marco Boschini, grazie come sempre, grazie mille. Un abbraccio ai comuni virtuosi. Giusto il tempo velocissimo di ricordare un nuovo appuntamento di Radio 24 insieme al Touring Club Italiano, che presentano Passaggio in Italia, alla ricerca di luoghi da scoprire, un nuovo progetto cross mediale al via il 17 giugno, on air ma anche online, accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli, a volte meno conosciuti del nostro territorio, delle radioguide sostanzialmente, con tutto quello che c'è da scoprire sui luoghi narrati. Annalita Lambrosio e Marta Cagnolo nel Sabato del Villaggio, in onda a partire dalle 14.30 e poi sul sito di Radio 24. È davvero tutto, noi ci risentiamo domani 8.30-10 con Si può fare. Un grande ringraziamento come sempre ad Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma, Claudia Schiattone, autrice e redattrice insieme a noi di questo programma, Paolo Corleoni, redazione. Ci risentiamo domani, ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini, a domani.